Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questo è lo speciale di Linee d'ombra del sabato sera, quello in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale, quella con cui chiudiamo ogni puntata. Una storia rilasciata in episodi, curata, scritta da Mauro Pescio, che vi racconta una storia ogni volta diversa. Nella passata stagione vi abbiamo raccontato storie riguardo a tutti i sette vizi capitali e poi abbiamo continuato a raccontarvi storie di vita interessanti, incredibili, che abbiamo trovato e che vi abbiamo raccontato. Potete trovarla anche in podcast se vi interessa, in un pacchettino di 5 puntate, di 5 episodi, tutte impacchettate insieme. Altrimenti basta che abbiate un 20-25 minuti di tempo e vi ascoltate i primi 5 episodi di questa nuova storia seriale, che è una storia incredibile. Arriva da quel bacino di storie splendido che è l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dove dal 1984 tutti gli italiani possono consegnare il proprio diario, ed è accaduto così un paio di anni fa, anzi 3 anni fa, quando un signore veneziano è arrivato in provincia di Arezzo, a Pieve Santo Stefano, e ha detto: queste sono le lettere che mio fratello nel 1952 scrisse a noi e a mio padre dopo essere scappato da Venezia ed essersi arruolato nella legione straniera. È una storia che comincia in quel momento, cioè nel 52, nel giugno del 52, e finisce 2 anni dopo. Quella storia è tutta raccontata attraverso un epistolario e noi ve lo raccontiamo passo per passo. È la storia di Antonio Cocco. La trovate anche in un libro che si intitola La ridotta Isabella, ma noi cominciamo da qui. A mamma e papà. Il dolore per la morte di Tony, troppo forte, nel 1954 e negli anni a seguire, è rimasto a lungo chiuso nel cuore di ognuno di noi. Ora si è finalmente esternato per diventare memoria condivisa, una memoria per tutti coloro che vorranno accostarsi a questa vita spezzata. Tony era un giovane che ha vissuto in prima linea vicende storiche oggi solo in apparenza lontane. È stato un ragazzo che tramite le sue parole e la sua scrittura ha donato e potrà donare a tutti pensieri e valori di sempre. Le sorelle e i fratelli Cocco. Giovanni, mi fai un attimo una panoramica della vostra famiglia, cioè nel 52, perché siete tantissimi fratelli e sorelle. Dunque, la Ida Polonia, Idania, era la più grande, 18 anni più di me. Poi c'era l'Anna, la Marisa, poi c'era Ciccio, Gian Domenico, Tony, Francesco, poi c'era la Mariella, la Carmela, la Lucia, e dopo venivo io. Tu sei piccolo, quindi? Io sono il più piccolo, i parti sono stati 12, ma dopo l'Idania le due gemelline sono morte dopo pochi giorni, 15-20 giorni sono morte, per cui in pratica siamo 10 fratelli, sì. Io sono il più piccolo, io sono del 42. Tony aveva 9 anni più di me, 9-10 anni più di me. Io sono nato proprio nella casa dove abitavamo, a Venezia, il sestiere a Dorso Duro. Io sono veneziano, i veneziani siamo in 2-3, molti sono andati a Padova, dati. I venezuoli erano di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, sotto vicino a Bassano del Grappa. In tutte le famiglie ci sono argomenti di cui si parla poco o per niente. Di solito di certe cose non se ne parla per vergogna o per convenienza. In certi casi non si parla di certe cose per risparmiarsi il dolore del ricordo. La voce che avete appena sentito, oltre a quella di Mauro, di Mauro Pescio, è quella di Giovanni Cocco, il fratello del protagonista della nostra storia. A proposito, il nostro protagonista, come vi dicevo, si chiama Antonio, detto Tony. Noi l'abbiamo scoperto appunto grazie all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, dove i suoi fratelli, nel 2017, hanno portato le sue lettere. Ognuno ha vissuto a modo suo sta roba, insomma, no? Per cui probabilmente ciò che ricordo io non è quello che ricorda mia sorella, oppure... Esattamente. Senti, intanto ti faccio una prima domanda. Cioè, comunque la vicenda di Tony è una vicenda, io immagino, estremamente, che è stata, e penso lo sia ancora adesso, estremamente dolorosa per la vostra famiglia. Beh, certamente sì. E dunque quello che ti volevo chiedere è se negli anni a seguire, cioè dopo il 54, ne parlavate in casa tra di voi? Non moltissimo, ognuno si teneva un po' abbastanza le cose per sé. Marsiglia, 16 giugno 1952. Partiamo per l'Africa domani con la Legione Straniera. Dolentissimo se non ho potuto scriverti prima. Di là ti scriverò una lettera con indirizzo, ma non ho potuto. Siamo ormai iscritti alla Legione e stiamo abbastanza bene. Tony. Arriviamo alla prima lettera, la sì. famosa cartolina del 16 giugno. Sì. Hai un ricordo di quando è arrivata questa cartolina? Ricordo perfettamente, perché è arrivato a casa mio padre come un po' che sventolava in mano questa cartolina, perché dunque mio padre arrivava praticamente alla cena la sera, io mi ricordo, e eravamo già tutti seduti a tavola, è entrato lui con questa cartolina in mano, con le lacrime agli occhi e sventolando questa cartolina, il coraggio di parlarne, e mi sembra l'abbia data da leggere all'Italia, mi sembra di ricordare. Sidi Bel Abbès, 18 giugno 1952. Caro papà, non so nemmeno come cominciare questa lettera e se avrò il coraggio di spedirla, perché mi sento tremendamente vigliacco. Avrei voluto scriverti sin dal primo momento che entrai in Francia clandestinamente, ma non potei se non al porto di Marsiglia e di nascosto. Non ti scrissi prima perché dovetti iscrivermi subito alla Legione Straniera e tu saresti senz'altro venuta a prendermi. Non che mi dispiacesse, perché lo desideravo con tutto il cuore, ma avresti dovuto spendere un sacco di quattrini per venire in Francia e pagare una forte multa per farmi uscire dalla Legione. E poi avrei dovuto fare del carcere in Italia perché ero clandestino. Spero capirai il perché del mio silenzio, anche perché tu conosci il mio carattere da avvertire sempre in tempo. Ti garantisco però che soffrivo. Sentivo il bisogno di scrivere, di farmi vivo, perché immaginavo lo stato d'animo in cui tu ti trovavi e di come tu passavi le giornate in ufficio. Che lavoro faceva tuo papà? Lavorava al Credito Italiano a Rialto. Lavorava in banca, sì, credo fosse vice direttore della banca del Credito Italiano di Venezia. Penso di sì che avessi un buon stipendio, però eravamo in tanti e tutti abbiamo studiato, insomma, no? Per cui il mio ricordo è che mia mamma e mio padre, che erano cresciuti lì a Rossano Veneto, con due guerre passate, certamente a casa non si i soldi erano controllati, non si faceva spese strane, non si facevano cose, tutto era abbastanza contenuto, tutto era abbastanza. E tua mamma invece si occupava della famiglia? Mia mamma, poveretta, sì, si occupava della famiglia, certamente sì. Pensavo a mamma e questo mi stringeva il cuore e spesso ci ho pianto sopra e mi chiedevo perché ho agito in questa maniera e con quale criterio mi sono arruolato a questo inferno. Quando me ne sono andato, ancora avevo l'animo preso dall'ira e non avrei più sopportato la presenza di qualche professore dinanzi a me. Ero esasperato al punto di proferire d'andarmene da casa conscio di quello che mi avrebbe aspettato, piuttosto che rimanere ancora 20 giorni a scuola. Non credere però che stia bene qui. Questa è una vita impossibile, specialmente per me, come ero abituato. Delicato come ero nel mangiare, vedessi cosa devo buttar giù. E se non bastasse, anche qui in Africa si mangia sotto il sole cocente. E cosa si mangia? Cipolle, carote e sempre patate con acqua. Naturalmente la fame mi fa mangiare tutto, però il mio organismo ne soffre con qualche svenimento sotto il sole, attacchi asmatici alla notte. E come ultimo ho preso una forte orticaria che mi rende martire tutto il santo giorno. Ho tutta la pelle piena zeppa di tacche. Questo tuttavia sarebbe sopportabile. Il peggio è nel lavoro che bisogna fare. Lavare piatti e pentoloni, pulire pavimenti, fare buche o demolire case sotto il sole cocente. Non parlo poi del dormire, ora. Qui a Sidi Bel Abbès si dorme decentemente, ma a Marsiglia, delicato come sono per la mia asma, ero in tormento tra la polvere, la puzza, la paglia, le cimici. E la gente che mi sta attorno te la puoi facilmente immaginare. Tutti chi più chi meno hanno avuto a che fare con la polizia. Tutto sommato credo sia impossibile descrivere questo ambiente e cosa si deve passare, quali maltrattamenti, e ad aggravare questa cosa per me c'è anche il rimorso di aver abbandonato la mia casa, te, mamma, fratelli e amici. Come minimo per 2 anni dovrò passare in Indocina. Adesso, nel modo più breve, ti scriverò cosa ho combinato e che cosa ho passato sino adesso. Tu ricordi qualcosa della mattina in cui lui è scappato? Quel giorno là io non mi ricordo di averlo incontrato, non mi ricordo. So che la Mariella aveva avuto sensazione che qualcosa non andava e l'aveva visto prima, ma io no. Cioè, la Mariella è stata l'ultima a vederlo quella mattina in cui poi ha preso il treno per Bardonecchia. Sì, è stata quella, ecco. C'è la sensazione, ma adesso anche questo qua c'è ancora, Mariella poi è morta così, che anche mia mamma sospettasse qualcosa. Tant'è vero che credo che gli abbia dato anche una collanina o qualcosina da al sottone, ma sono tutte cose dopo che non so di preciso, perché non se ne parlava a casa. Alla fine Tony parte da casa il 24 di giugno alle ore 6 da Piazzale Roma a Venezia, ma come sentirete tra poco dalla voce di Gianluigi Cortese, figlio della sorella Anna, sulla partenza di Tony in famiglia ci sono dei dubbi. Quando è scappato l'impermeabile non ce l'aveva, l'ha preso a sua sorella, è partito con un impermeabile di mia madre, il cappello di feltro se l'era portato via. Con le scarpette da città naturalmente, per cui quando racconta che attraversano i nevai le cose sono con le scarpette sì, da sì. Città. Poi sulle date, cioè, guarda, allora le date sono una triste storia, cioè triste. Quando la fuga di Tony avviene sicuramente l'interrogazione del 23, la fuga da Venezia, scappa, se ne va il 24, poi lui scrive che passano di confine il 27, mi pare adesso il 28, però lo trovo fuori, però non si sa se parte alle 6, non si è riuscito a capire se sono le 6 della mattina o le 6 della sera, secondo me alle 6 della mattina. Ho preso, o meglio abbiamo preso il treno a Padova, diretti a Milano e Torino alle 21. Abbiamo passato la notte in treno e siamo arrivati a destinazione alle 9. Di lì, poi, siamo andati a Bardonecchia, ultimo paese del confine. È sicuro che Antonio, dopo l'interrogazione, ha preso, è scappato di casa, è andato in Francia, ma non è che fossero andati per arruolarsi nella legione straniera. Io mi sono fatto l'idea, leggendo un po' di cose, eccetera, che lui cercasse un lavoro, molto probabilmente cercava un imbarco, forse a Marsiglia, e può darsi, essendo tutti e due veneziani, che avessero pensato di scappare assieme e andare a cercare un imbarco, magari per l'America, non lo so. È un'ipotesi ragionata, nel senso che Antonio amava l'avventura e era affascinato dall'idea del mondo, di viaggiare probabilmente, anche alcuni disegni che faceva, lui era molto bravo a disegnare, suo fratello Giovanni ne ha alcuni che gli aveva regalato Antonio, ci sono gli indiani, ci sono le cose, per cui io ci metto l'idea di che aveva sicuramente di conoscere il mondo, e sa perché era un veneziano, perché comunque allora io penso che sicuramente lui è andato in Francia per trovare un lavoro e immagino che potesse essere anche un imbarco, siccome è passato giù lì, ha cercato di scendere, passare la Francia da Bardonecchia, forse puntava ad arrivare a Marsiglia. Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Linee d'ombra. siamo lì con lui, siamo con Tony, siamo in quelle lettere che lui scrive al padre, che si trova a Venezia, cerca di spiegare quello che ha fatto, cerca di chiedere scusa al padre e ai fratelli, e continua a scrivere e continua a raccontare. Da Bardonecchia abbiamo deciso di andare in qualche albergo per tentare di passare il confine il giorno dopo. Difatti così abbiamo fatto. Tre erano le nostre possibilità di riuscita. La prima era il treno, tentando di farcela alle spalle dei contrabbandieri. Questa però ci andò male. La seconda era quella di passare attraverso delle montagne alla sinistra del paese, ma anche questa andò buca. L'ultima carta, tentata giorno 27, ci riuscì ed era la più difficile. 28 ore di cammino abbiamo fatto, vestiti come eravamo, con le scarpette, attraverso nevai immensi. Di notte, bracconati dalla finanza, con Paolo, il mio amico, che aveva la febbre senza sapere dove fosse la meta. Due o tre volte fui sul punto di rinunciarci, di tornare indietro, ma per fortuna un contrabbandiere ci aiutò un pezzo e noi ci demmo l'orologio. Ho detto un pezzo perché nel più duro, quando eravamo su un nevaio e con sotto un salto di 200 o 300 metri, la finanza ci dette il chi va là. Il contrabbandiere se la dette a gambe e noi, come meglio potemmo, ce la squagliammo. Insomma, alle 6 del mattino, mezzi morti, siamo arrivati a Modan e ci hanno presi. E come se non bastasse, ci hanno fatto lavorare sino all'una. O ti arruoli nella legione, oppure torni con le manette in Italia, ti fai almeno qualche mese di galera e chissà se tuo padre ti vorrà mai a casa. Certo. Perché questo, scrive Antonio, gli hanno detto. Sì. A Modan, quando l'hanno preso. Abbiamo passato la notte lì, per terra. Alle 5 del mattino siamo partiti per Chambéry. Lì ci hanno messo in una specie di prigione e, dopo aver passato una visita medica e aver fatto due o tre firme, ci hanno fatto come al solito lavorare. Lì ho trovato delle altre reclute, tutte remi da galera. Era una caserma di soldati molto bella, con un bellissimo campo di equitazione. Non rammento bene quanti giorni sia rimasto lì, tuttavia si stava abbastanza bene, levando quelle volte che dovevo fare il servo. Se non erro, dopo 4 giorni ci hanno sbattuti a Marsiglia e di qui è cominciato l'inferno. Non abbiamo saputo nulla finché è arrivata la cartolina, circa un 20 giorni dopo che era partito. E quei 20 giorni come sono stati? Ti puoi immaginarti come sono stati, cioè questo silenzio totale, c'era sta forma di incredulità, di paura. Io ero piccolino e sentivo che sentimenti di miei fratelli, di mio papà, che non ne parlavano, rimaneva tutto dolore all'interno e nessuno, se ogni tanto qualche mio fratello veniva fuori così, ma non se ne parlava, non mi ricordo se ne parlasse a casa, era troppo dolorosa la cosa. La caserma era esclusivamente per i legionari e sembrava carina vista dal di fuori, ma bisogna entrarci per vedere com'è la vita. Ci hanno dato una divisa che faceva pietà e lavato via quel giorno di riposo per la puntura sulla schiena, e quando dovevo fare qualche visita ho sempre lavorato indefessamente. Era una pacchia quando con la jeep o con qualche camion ci portavano fuori città a fare buche. Di quell'inferno ne ho sopportato una settimana e poi domenica sono partito alla volta dell'Africa con la nave. Paolo è rimasto a Marsiglia perché hanno voluto dividerci, così sono rimasto anche solo. Lui non è partito da solo, è partito con questo Paolo Dri. Chi era? Era un ragazzo che abitava al di là del canale. Ed erano amici loro due? Loro due erano amici. Lui era, Paolo Dri era un po' più giovane di lui, infatti è partito quando aveva ancora compiuto 18 anni, ed è il motivo perché mio padre poi è riuscito a farlo tornare a casa. Ecco, infatti ti volevo chiedere, che fine ha fatto Paolo? Cioè, è tornato? È tornato a casa, poi non so più nulla proprio. Ti ricordi qualcosa rispetto, cioè, avevano avuto dei rapporti le vostre famiglie, la vostra famiglia Cocco e la famiglia di Paolo? Secondo me non credo. Sì, conoscevamo, sapevamo che era di là, ma no. Ma dopo che sono scappati insieme, dico, eh? Sì, dopo sì. Io non l'ho più visto, non credo che a casa mia nessuno l'ha più visto dopo. Non era un personaggio, cioè, non piaceva. Vabbè, insomma, adesso mi addentro anche in cose. Non era un amico di famiglia, assolutamente no. Certamente sì, eravamo contenti per lui, ma perlomeno certo. A me non me ne fregava niente. Ma questa è una storia piena di contraddizioni e che ha lasciato tanti strascichi nelle vite delle persone che ne sono state coinvolte, anche solo in maniera tangenziale. E qui di nuovo Gianluigi, il nipote di Tony. Grazie a lui ho potuto andare più a fondo. Quando mio nonno, il papà di Antonio, Luigi, apprende che il figlio è una regione straniera, la prima cosa che fa è cercare di capire se si può farlo tornare indietro. Di lì poi comincia tutta una vicenda che è anche giudiziaria, di cause, cose contro la Francia, eccetera, eccetera. Il dato contro cui si scontra però Luigi è che per le leggi francesi si viene arruolati nella regione straniera anche senza consenso paterno, basta aver compiuto 18 anni, che attenzione, 18 anni allora, soprattutto in Italia, non era la maggiore età, che era 21, però a 18 anni, non per i francesi, per gli stranieri, la legione straniera poteva ingaggiare. Allora, Tony aveva compiuto i 18 anni a novembre, quindi aveva 18 anni e mezzo. Paolo Dri non aveva ancora 18 anni quando li hanno arrestati a fine maggio. Ecco perché poi, tra la fine di luglio, se non sbaglio, grazie all'azione, tra l'altro, del papà di Tony, Paolo Dri lascia la legione e torna in Italia, perché non aveva compiuto 18 anni al momento dell'ingaggio. Non abbiamo più testimonianze dirette. Comunque la storia è che Luigi non vedeva, il papà di Antonio non vedeva di buon occhio Paolo Dri. Probabilmente lo considerava un po' responsabile della fuga del figlio. If you want to ride a rainbow, come with me and I'll take you to the magic purple sea. Maybe we will find 1,000 sugar fish. When you eat them, they will grant your every wish. And if you want your friends to come, then bring them all along. If you want to catch a star, then walk my way. I'll take you where the night is always day. You can follow me if you really try. Maybe we will find a rainbow to teach you to fly. And if you want your friends to come, then bring them all along. I will take you through the magic dancing wood, and I will take you where the goblins are all good. Linee d'ombra in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 15 qui su Radio 24. Vi raccontiamo storie di confine, storie che hanno nel mezzo una linea che è stata valicata. E tutti i giorni chiudiamo con una storia seriale, e per le prossime settimane vi racconteremo questa storia qua, la storia di Antonio Cocco, di tutta la sua famiglia, e la storia della ridotta Isabella. Grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, grazie a Danita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni che fanno insieme a me questo programma. Ora la linea va al GR e noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!